Euroreportage. Ida, dall'Europa al mondo con il premio Lux di Marta Cagnola. And the Oscar goes to Ida. Un momento importantissimo per il cinema europeo. Il 22 febbraio scorso l'ultima edizione degli Oscar, a vincere il premio al miglior film straniero, il polacco Ida. Il suo nome è Wanda Gruss, è tua zia. Oggi mi gioco, ja kocham ciebie. Oggi mi gioco. Sono tua nipote. So che sei. Sei una suora ebrea, non te l'hanno detto? E non ti hanno detto chi sono, che cosa faccio? Oggi mi gioco, ja kocham. Ambientato nella Polonia del 1962, Ida è la storia della giovane orfana Anna che vive in convento. Prima di prendere i voti va a far visita alla sua unica parente in vita, zia Wanda, un giudice che ha mandato alla pena capitale decine di partigiani. Una donna depressa, disperata, alcolizzata. L'incontro tra le due donne segna l'inizio di un viaggio alla scoperta l'una dell'altra, ma anche dei segreti del loro passato. Chi sei tu veramente? Una donna che ha condannato a morte degli uomini. Ida ha vinto l'Oscar, ma qualche settimana prima aveva conquistato anche il premio Lux. Il premio Lux è un premio cinematografico assegnato annualmente a un film di produzione europea dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 2007 a distanza di 50 anni dal Trattato di Roma. Un comitato formato da 17 persone appartenenti all'ambiente cinematografico, scelte dal Comitato per la Cultura e l'Educazione del Parlamento europeo, seleziona 10 film, che poi diventano 3, che infine vengono sottoposti al giudizio di una giuria formata da tutti i membri del Parlamento europeo. E quest'anno gli europarlamentari hanno scelto proprio Ida di Pavel Pawlikowski. Der Gewinner, the winner is Ida by Pavel Pawlikowski. I'm very honored to be here and to receive this award for Ida. Sono molto onorato di essere qui e di ricevere questo premio per Ida. 3 giorni fa ho ricevuto anche il premio principale agli European Film Academy Awards a Riga. Così posso dire che quest'anno il mio film è ufficialmente il più europeo tra tutti i film europei. Forse non è un caso che il suo autore nella sua vita abbia abitato e vissuto in 5 paesi europei diversi. Questo film è riuscito ad attraversare tutti i confini europei, raggiungendo tanti pubblici diversi, dalla Francia all'Ungheria, dal Regno Unito a Malta, accompagnando Ida in tutta Europa. Sono sempre stato piacevolmente sorpreso dal fatto che davanti a questo road movie, ambientato nella Polonia degli anni 60, tutti i pubblici, da quello finlandese a quello spagnolo, da quello cipriota a quello irlandese, abbiano visto riflessa la propria storia, i propri pensieri e le proprie emozioni. Abbiamo sempre il problema della lingua, della distribuzione e della promozione. E per questo ringrazio il Parlamento europeo, che ci aiuta a superare i confini. Ma se un solo film vince, tutti i 3 finalisti vengono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e proiettati in tutti i 28 paesi durante le giornate dell'evento Lux Cinema. Un'enorme opportunità, sottolineano gli altri 2 finalisti di quest'anno, lo sloveno Rok Bicek, regista di Nemico di classe, e la francese Céline Chammat, che ha diretto Gruppo di ragazze. Yeah, I think that Lux Prize or Lux Days are really important event for European cinema. Credo che il premio Lux e i Lux Days siano un evento importantissimo per il cinema europeo e per i 3 film finalisti. Per esempio, quest'anno sono importanti per far conoscere in Europa il cinema sloveno. I'm coming from a small country, from the small. Io vengo da un paese piccolo, con una piccola industria cinematografica, e per noi è difficilissimo ottenere questo tipo di attenzione. È una grandissima opportunità quella di poter mostrare i nostri film tradotti in tutte le lingue ufficiali europee. It's really great opportunity to show our movie. Credo che sia un evento importantissimo per promuovere il cinema europeo. E sono convinto che il cinema europeo se lo meriti. Yeah, I think this is really important event which promote European cinema, and I think that European cinema deserve this. En tant que cinéaste, on est souvent assigné du pays d'où on vient, d'où on parle. Noi cineasti siamo spesso identificati con il nostro paese di provenienza. Sono una cineasta francese. Nei festival è la mia categoria. Veniamo di solito selezionati e classificati per paese. La bellezza di questo premio è la circolazione delle opere. Il film arriverà attraverso i sottotitoli in 28 capitali, 28 popolazioni. E questo rende davvero felici. Uno dei principali obiettivi del premio è proprio facilitare la circolazione dei film europei, superando la barriera linguistica che ostacola l'esistenza di un mercato cinematografico europeo comune. Ma i registi sottolineano anche come sia importante che attraverso questo premio, e non solo, si sensibilizzino le istituzioni al tema degli interventi legislativi ed economici legati al settore cinematografico. Così Pavel Pawlikowski, intervistato dal canale televisivo dell'Europarlamento. Spero che ci sia sempre abbastanza denaro per continuare a fare arte. Tutto sommato, per fare un buon film non ci vogliono davvero tutti questi soldi. Eppure ci vogliono finanziamenti pubblici e soprattutto la consapevolezza che il cinema è una forma d'arte e che in quanto tale deve essere protetta dalle pressioni del mercato e della politica. Ed ecco perché un premio come Lux ha un grande valore, perché sottolinea come il Parlamento europeo protegga i film europei e film non scontati. È un ottimo segno e io sono molto contento di aver ricevuto questo premio. Ma allora cerchiamo di capire, Lux a parte, cosa fa l'Europa per il cinema. Lo chiediamo a Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Esiste da molti anni un programma molto importante che si chiama MEDIA, che abbiamo rilanciato con Europa Creativa per i prossimi 7 anni, che comprende sia la parte cultura, creatività e media. Io, come relatore di Europa Creativa, ho inserito la buona pratica del Lux anche nelle possibili forme di sostegno alla distribuzione dei film europei proprio nel programma MEDIA, che ha stanziato 1.400.000.000 di euro per i 7 anni ed è stato ormai lanciato nel 2014. Secondo, noi abbiamo un grande problema di circolazione dei film prodotti in un paese europeo e negli altri paesi europei. Noi siamo come continente il primo in questo momento al mondo come numero di film prodotti, 1.200 film l'anno scorso, ma siamo con una quota veramente molto bassa, intorno al 10% di circolazione di film europei negli altri paesi. Quindi noi stiamo lavorando anche per rafforzare, per esempio, le licenze multiterritoriali per il diritto d'autore. Abbiamo previsto il sostegno anche alle piattaforme digitali. Dobbiamo far crescere anche il cosiddetto audience development, cioè sviluppo del pubblico, che significa non solo in termini numerici anche, ma di cultura cinematografica. Quindi molta importanza avranno il sostegno ai festival, sosteniamo la mobilità e dei professionisti, penso anche agli stage, le opportunità che ci sono anche di tirocini, sostenere le coproduzioni anche con le televisioni, anche se naturalmente vengono sostenuti i produttori indipendenti, ma soprattutto abbiamo deciso che Media sostiene soprattutto il pre e post produzione, molto sostegno alla distribuzione, alle sale. Noi abbiamo una linea molto interessante, che è quella di sostenere permanentemente una rete che si chiama Europa Cinema, 2200, vado un po' a memoria, sale cinematografiche in tutti i paesi, compreso il nostro, promuovono una quota significativa di cinematografia non nazionale. E poi c'è un grande aiuto anche per quanto riguarda la vendita verso paesi terzi. E poi la cosa interessante è che Media non si limita solo ai paesi dei 28, insomma, paesi europei, ma ha un perimetro più largo, penso a tutti i paesi del vicinato, ai paesi candidati, e sulla base di accordi bilaterali con risorse aggiuntive, quindi si possono ottenere altre risorse, accordi anche con paesi terzi. Ma esiste già una cultura unica europea nel cinema, o almeno un inizio di visione comune? Céline Chammat dice sì. Penso che questo avvenga già nella fase della produzione. Il modo in cui i film sono prodotti in Europa passa molto per la coproduzione. L'eccezione culturale francese, per esempio, dà linfa a tutto il sistema cinematografico europeo. Ci sono capitali francesi in produzioni di tutta Europa. Le identità nazionali sono emozionanti, sono bellissime da conservare. Gli incontri avvengono e poi saranno le politiche culturali a mettere insieme un'identità unica. Se l'Europa culturale arriva a decisioni politiche, allora sì che ci sarà un'identità, perché ci sarà un'unica battaglia, una posizione su quale posto dare alla cultura nella collettività. E se le decisioni politiche andranno nel senso di dare una posizione più importante alla cultura, la cultura ne trarrà grande beneficio. E purtroppo potrebbe succedere anche il contrario. Ma a livello puramente industriale ci si ritrova già e lo si fa sempre di più. E se le decisioni politiche ci aiuteranno, potremo vivere davvero insieme. E che se le decisioni politiche sono là, allora on vivrà veramente insieme. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.